segnale, eccetera, e tu invece hai l'antenna di, sì, nel ricordo che avevi là, vabbè, so che antenna hai, però adesso non mi viene il nome. Sì, c'è anche quello, Daniele, purtroppo è così. Vai, Daniele. Energy 5 ottavi e giù. Ah, vabbè, già è accettabile, niente da dire. Anche se ci sono, per dire, segnali bassi, magari viene coperto al QRM, tutto lì, per poi il resto già non... Già va più che bene, ha voglia. Sì, ma va benissimo, certo che va bene. E cazzo, anche quella di Marco va bene. Certo che va bene, e ha voglia alla grande. Per fare quattro chiacchiere e anche per fare i collegamenti adesso con la popolazione che verrà, va benissimo, Daniele, non c'è problema, è a Rugrido. E vabbè, comunque no, io ho preferito questa perché la notte sempre, torniamo sempre a quel discorso, quando c'è il vento i radiali della Mantova Turbo, perché ce l'ho sempre, mi fischiavano e mi dava fastidio, allora l'ho cambiata. Avanti Claudio. Cappa, non entra nessuno, però commentano nel sottofondo, va bene, siamo qua, se qualcuno vuole commentare, siamo qua, come dice Striscia la Notizia, se qualcuno vuole dire qualcosa, siamo qua. Sì, ma è normale, Giulio, 140 è una baracchina a sintonia continua, è un ATF che ti permette di fare due chiacchiere, ma è molto, molto rumoroso, sia in tutte le bande, anche in mano laterale, molto rumoroso. 430 molto, ma molto, molto selettivo, anche più del 440, ma non lo dico io, lo dicono i fatti, molto meccanico, molto, una radio molto perfetta, molto riuscita soprattutto. Tu immaginate che io in 10 anni ho, questa è la prima riparazione, non la chiamo riparazione perché io l'ho mandato perfettamente funzionante la radio, però come ti ho già spiegato praticamente non c'era più stagno nei circuiti stampati, le spinette tutte si muovevano, quindi una riparazione generale che è servita per dare un po' alla radio le cose insomma che ci volevano, ecco, spinette, saldature, ma non ha cambiato un componente, a me pare che abbia cambiato un condensatore perché ha visto che era un po' più aperto rispetto agli altri, prima che si spaccasse del tutto me l'ha sostituito, ma mi ha detto che la radio è perfettamente funzionante e ce l'ho 10 anni, non ho mai fatto una riparazione. In 10 anni di 440, perché 10 anni che io usavo il 440, l'ho riparato 3 volte, 3 riparazioni in 10 anni, quello che conosciamo, la parte del VCO, e una addirittura l'ho versata senza ripararla e me ne avevo preso un'altra quando era in attività Bianconi. Tu immagini già di due, la differenza di eccetera al 430 e al 440. Infatti ho deciso di tenere il 430 e il 440 non ne prendo più. Vai Daniele. Gava, sì. Sono dei carri armati, sono il ferraglio, una cosa allucinante, no? Meglio così. No, il capo lo preferisco anche più al Cialo Iaeso e altre marche. Andiamo, che è? Mi nomi a Luca, me ne è andato vai Luca. Più che me ne è andato, giuro, ho cenato, dai. Adesso vado a prendermi l'autobus e riprendo da casa se ci siete, se no ritenetevi salutati, giappa. Ok Luca, comunque te lo volevo dire anche da poc'anzi quando eravamo in queste ore, ma la radio è spettacolare con Luca, è meravigliosa veramente, sempre ce l'hai avuta bene la radio. Però da quando hai cambiato baracchino con quel 3009 o cos'è, devo dire che è proprio alla grande rispetto a quel baracchino che usavi prima, quello spinto, mi riferisco a quello spinto, questo è eccezionale, una bellissima radio Luca, vai ancora. Non lo so come esco, non mi ricordo, forse l'ho sentita la modulazione, perché l'ha usato Marina, io l'ho a casa, l'ho ascoltata, ma non è che questa, forse lì non lo fa andare, cosa ne so, sarà la mia timbrica che lo fa uscire bene. Vabbè, niente, è meglio così, no, è sempre il Typhoon giù, il famoso Typhoon che usavo a casa, però qua ci ho messo il microfono normale, infatti volevo prendere uno da tavolo, solo che purtroppo quello che avevo comprato non va bene. Pazienza, dai. Vedo un po' adesso, un giro mi faccio su eBay, l'ho trovata a 60 euro il MB più 4. Ma vediamo, dai, vediamo in seguito, perché ho delle spesucce, è un casino, dai. Vabbè, riprendi tu giù, dai, io vado a prendermi il tramvai e riprendo da casa dopo. Ciao a tutti, buona cena. Ok, ciao Luca, dopo allora, dai. Sì, vabbè, sono già le 8, fra un po' mi chiameranno anche a me per la cena. Va bene. Sì, no, è sempre una bella radio, veramente, dai, no. Sarà pure la tua timbrica, non so, questa sarà anche quello, perché quello è molto importante. E vuoi Claudio, sì, giù, mi va a mettere una timbrica particolare, Claudio è ancora meglio, però senza offendere nessuno, però devo dire che quello è importante, è molto ma molto importante. Avanti Claudio. Eia, d'accordo, Rugarie, beh, ci aggiorniamo dopo allora, non c'è problema, già siamo qua. Ok, avanti Daniele. Ciao, ciao Luca, a dopo se coincide. Va bene, ma io di fatto sento qualcuno sotto quando parla Giulio. Giù, diciamo che Carlo ce l'ha un po' da uomo sessuale la modulazione, dai. Vabbè, a dopo, ciao. Da cuoco, ma ne per svella. vabbè, se hai qualcuno che vuole parlare o che vuole mettere la portante, pensate che non mi compra, pure per il resto può dire tutto quello che vuole, che se ne frega. Intanto io non lo sento, Daniele, non è un problema. Avanti qua. Tanti comprerei su la fotidina, anche io ho sentito poco fa che l'hanno fatto il tutto. E noi siamo pronti a buttare tutto, ma te lo diciamo, non buttiamo la roba, così tu vai e te la recuperi. Gappa. Daniele, stai uscendo veramente bene. Quella regolazione che abbiamo fatto, che ti ho detto di fare, hai visto? Purtroppo c'era un ritocchino da fare, dai. L'abbiamo fatto e stai arrivando veramente bene, fortissimo, sia del radio che del segnale, riprendi. Super Claudio, meno male. Va bene, no, sono già disperato, cavolo, se non usciva. Ai tempi che furono guai. No, io l'ho sentita subito per il colore, tu hai messo le MC60. Io ho sentito la radio, io purtroppo con queste. Il difetto che ho di questa radio che ha orecchio male, ho capito. Ti ho detto, ma questa radio mi sembra un po' chiusa, quindi ti ho fatto aprire il coperchio, ho detto vai lì, dimmi che posizione è il trimerino, tu mi avete chiuso, apri, vedi cosa succede. Una fesseria però ti fa uscire molto molto meglio, ho capito, tutto qua. Va bene, io sono un handicappato in materia di elettronica, ma queste radio le conosco come le mie tasche, almeno quelle piccole cosettine che vanno fatte so farle, e boh, però non so come faccio. Vai Giulio. Ok, certamente sì, che io lo grido. No, ma lo sappiamo ormai, ma ne abbiamo parlato anche ieri, e per me per questa frequenza, io parlo per questa frequenza, il K è... Arrivo subito qua. Però come radio sono di gran lunga superiori a qualsiasi altra radio, per conto mio, premesso che ci sono radio superiori a questo, non ci sono due, però non in AM il barito è un po' pesante, è un po' difficile per tutti, perché il tempo in AM è veramente eccezionale. Avanti Daniele. Ecco. Avanti, vabbè. Sì, ciao Giulio, ciao Claudio. No, Daniele l'ho sentito, ha acceso adesso, ho sentito, ha detto che si allontanava un attimo. Comunque, mi hai sentito Giulio, avanti a te e poi passerà a Claudio. Ok, ciao, vabbè, sì. Adesso le 8:07 minuti. Adesso non so quanto rimarrò ancora qua, perché sicuramente sentirò la chiamata dalla parte bassa, cioè dalla tavernetta per la cena. Comunque c'è Claudio, sì, avanti Claudio per Roberto. C'è questo che dice sotto la base di tutto, avanti che vuole entrare. Siamo dicevi, era poco fa che quando parla Giulio le parla sopra, e non riesco a capire. E continua a disturbarti, continua a dire la base di tutto, non lo so se ce l'ha con te, cosa vuoi ti dica. Ciao Robè, buonasera, ben ascoltato. Sì, ciao Claudio, ma lo passi comunque giù, si sente proprio nel fondo questa persona. Avanti, se vuoi entrare, entra, dai, se vuoi entrare. No, ma se vuoi la parte di tutto, è meglio che entro anche al monte, e non vedi se sei curioso. E poi visto la parte di tutto. stare, che già ti voglio bene lo stesso, anche se sei imbecille, non ti preoccupare. Avanti, vabbè. Non capisco, vabbè dai, lasciamo perdere, l'ha detto per importanza, molte volte non serve a niente. Continuiamo, cosa volevo dire? Lugano è in giro, la regata, la luce. Sì, Rob, mi stavo preparando la verità, a portarla invece mi ha fiato, papà dai, stai tranquillo, già sono un po' stanchino, l'ho posto io, mi ero rientrato adesso. Robby, fra un po' finisce, hai visto cosa le stiamo preparando a Filippetto, eh? Io già ho capito, dai. Meglio così, dai, sarà molto meglio, più confortevole e tutto. Vai a te, Giulio. Ok, fa un po'. Anche il cane sarà meglio, sì, dove si trasferisce Claudio sicuramente avrà più libertà. E soprattutto avrà più libertà anche Claudio, perché lo lascia libero tranquillamente e fa tutto da solo. Non c'è bisogno quasi quasi di seguirlo, visto e considerato che tanto sarà tutto recintato, immagino, lì. Confermi qua che è tutto recintato dove devi andare. Guarda, l'unica persona che sa e che ha visto è Roberto, perché deve fare un lavoro. Secondo te è bene sta il cane lì, Roberto? È già un grillo, assolutamente. Caccio l'ho andato a mettere il veterinario chiuso, si sa che se si rubò cani un cane. Dico, non sarà cane da guardia, sarà cane d'appartamento, ma è troppo bello. Ma qualcuno lo prende e se lo porta via, come quello di mio fratello, gli hanno fregato. E beh, un genio. Super 5, Radio Super 5, no, e chi salta di roba? Non salta nessuno, a parte il fatto che sta fuori durante il giorno, poi come imbrunisce, a quest'ora lui è già dentro con il catto, perché è un dormiglione, le piace molto stare al sole, anche nel mercoledì tagliamo l'erba, diamo una sistemata, i muratori sono tutti da mettere le balle, finalmente oggi hanno finito, dove c'era la figlia, quello che hai visto tu, e basta, quindi insomma, spero dopo Pasqua di trasferirmi, dai, piano piano. Ciao Eugenio, ti passo il cambio, ci sono io, Giulio, Roberto Quadratto e Daniele, vai. Vabbè, Daniele si è allontanato, avanti Giulio per Eugenio. Ok, ciao Eugenio, ben entrato, ben ascoltato come sempre. Sì, va benissimo così. Sì, Santiago 9 qua mi stai arrivando, modulato. Ma lo passa però. Bene la radio, bene il segnale, tutto a posto, voglio dire. Non c'è problema, è un piacere di ascoltarti. Avanti Claudio. Che miseria, non solo a te, Robert, ma quale va fastidio, dico, bassa, gettati tutto. Non va fastidio a Giulio, No, adesso non l'ho sentito, ma lo sentivo basso, poco, cioè basso, Giulio arriva a 9.20, quello lì era un po' più basso, ma lo sentivo sotto, no? Giulio lo passa alla grande qua. Vecchio! Ecco Daniele, no, quale va fastidio? Sicuramente è aumentato qualcosa. Va bene. Avanti Daniele, è entrato anche, poi mi dici roba se sto andando bene o se mi hai attenuato, sto andando con 20 watt. Avanti Daniele. Ripassa a Giulio, se sa mai che l'abbiamo già chiamato. Vabbè dai, rilanciamo a Giulio così se c'è. Si fa altri passaggi veloci. Sì, ci sono. Ancora non mi hanno chiamato. Oggi sono in ritardo in cucina qua, però faranno molto, sicuramente arriva la chiamata, va bene, non c'è problema, va bene che ormai è cambiato l'orario, per cui sarà anche per quello, che ne so, va bene così, avanti Roberto. Ok, aspetta, lanciamo Eugenio che è in riposo. E beh Eugenio, che si dice al posto d'ora? Io sono sceso da Brico, come poco fa poi sono andato da un'altra parte, c'è un po' di gente in giro. Ok, Daniele, a te il mic, stai uscendo alla grande Daniele, fortissimo, radio forte e chiara. Ciao Roberto, ciao Eugenio. Meglio così, dai Roberto. Va bene. Puntello tutto allora. Forte e chiaro, va bene. Addirittura. Cava. Anda bene, veda. Riprendi qua. Eh sì, in definitiva è così. In definitiva è così, come dice qualcuno. Ti sento molto meglio dell'altra che avevi, Daniele. La rete è molto molto forte, bella, pulita, ma soprattutto molto forte rispetto ai primi passaggi che avevi fatto senza fare quel ritocchino che abbiamo deciso di fare. KK. A te, Robert. Mi hai attenuato per caso? È per forza, se no sei troppo forte. Vabbè, anch'io ti ho dovuto attenuare oggi, non so cosa c'hai. Sul 4.30 mi arrivi ancora più forte di come arrivavi sul 4.40, forse perché il 4.40 non era preciso, questo invece più preciso, sei proprio sul DB, mentre di là arrivavi quasi sulla B e lei sulla D, e quindi per non spaccarmi lo smittere ho inserito l'attenuatore, intanto sento tutti, 20 dB in meno, ma li sento tutti, quindi non c'è problema. A te il cambio, Giulio K. Ok, dai, è sabato che c'è qualcuno che vuole entrare, non lo so, un Santiago 8, c'è qualcuno che vuole entrare su questo canale? No, forse no, mi sono sbagliato, no, perché sentivo una parola sotto, Sabate. Sì, l'ho sentito, ma Giulio lo passa. Sentivo questa parola, sentivo, comunque, va bene lo stesso, non c'è problema. Avanti Eugenio. Era poco fa, era quasi tutto, era quasi tutto, io non ho fiducia la panuda perché altrimenti rimango senza radio, magari Giulio se sei la palizza che trattendi, già ne altri. No, ma si deve lampare che cosa? Dove il problema a me? Se si può lampare dal Monte di Roseto, così al Marco, o Paramarco se vuoi, quindi se lo lampo anche se ne raccoglie. Avete considerato che ho raccogliato a ciò, cosa vuoi che ti dica, no? Non me ne frega niente, più di tanto, figurati. Vabbè, dai. Dai, lasciamo perdere, non ti preoccupare. Da parte mia ti ascolto, appena sotto si sente, ma lasciamo perdere. Se ne diamo troppa importanza, magari è peggio. Facciamo finta di niente. Cosa volevo dire, Uge? Ma è possibile che ci sia una moto uguale alla tua in giro dello stesso colore, Uge? Allora è Rituca, che tempo fa ne ho visto una, però non mi sembrava Rituca, che vabbè c'era il casco, se eri tu, era uguale identica alla tua, lo stesso colore. Allora eri tu, dai. Ok, devo fare una domanda a Daniele. Ah, Daniele, non so se te l'ho detto, mi hanno portato un Land Rover del 63, guida a destra. Cavolo, non te la c'hanno forse l'altro giorno, l'ultima volta che siamo sentiti in radio. Addirittura guida a destra. Ma mi fa troppo ridere, cioè TG Cristalli con due motorini e li comandi singolarmente, non so se l'hai mai visto. No, questo mi mancava, no? Di quello qua lo so, conosco solamente esternamente. Tutte le cose che ci sono internamente non ci ho mai approfondito, la verità si dica. Ma cos'è? Bianco a quattro porte o passaporto? No, è passaporto, è a due sportelli. È strano, mi c'ha il montante dove attaccano le cerniere frattico, quello vuole sostituito, lo devo rifare tutto, di un tipo vive a Torino questo qua, però credo che sia da dove me l'ha portata, adesso non me lo ricordo neanche, l'ha mandato un amico, un appassionato questo, ma si ha fatto mettere a posto il motore, cioè presente tu, quindi trattori anni 50 del dopoguerra, dentro spartano peggio di quello non ce n'è. Ok, avanti a te Giulio. Ok, dai, io adesso vi saluto perché mi hanno chiamato per la cena, appunto stavo aspettando che mi chiamate di nuovo per salutare, dai, ci sentiamo. Ciao Claudio, ciao Roberto, ciao Eugenio, ciao Daniele, Luca se si è d'accordo, saluto a tutti, a tutti, anche l'amico che dice da parte giusto, avanti la puntata, avanti la puntata lì in panza, ciao, ci sentiamo, ciao ciao. Ascolta, fino a lì poi chiudo, vai qua. Continua per te, Reto. Vabbè, comunque tu lampati il tutto, poi glielo dici, lo ricevuti tutto, così lo dai e ce lo raccogli. Ciao Giulio, buonasera, buon tutto, salutone, grazie per le due chiacchiere. Vai Daniele. Ciao Giulio, buona carica, le prossime c'è il concerto, quindi approfitto anch'io, che mi hanno già chiamato anche a me per la cena. Salutone circolare a tutti, vai. Riprendi qua. K, ciao anche a te Daniele, allora buona cena. buonasera, buon tutto, saluto a casa, vai Roberto. Ehi, ciao a tutti e due, ciao Giulio, qui a Daniele, buona carica, buon tutto, dai. Vai Uge. Ciao a tutti e due, ragazzi, ci sentiamo magari la prossima volta se coincide. Ciao, buona cena. E Uge, ma tu con cosa stai uscendo? Con cosa ecco? Non ho capito. Con che radio stai uscendo adesso? Perché è male, ma no, benissimo, forte e chiaro, dico, diversa radio, ha cambiato radio. Sì, va bene. Oh, bella, bella piena, ti sento benissimo. Ti ho ascoltato anche l'altro giorno di sfuggita, io c'ho una radiolina tipo un pacchetto di sigarette, più piccola con l'antennino, sono riuscito a sentirti, eppure cacchio l'antenna non ha, vabbè, quella radio c'ha una ricezione da paura, e ti ho sentito, figurati di radio, me il segnale magari non era fortissimo, però ti ritiravo fuori bene il radio. Sono a migliorare, stai andando alla grande, complimenti, bella radio e bella pulita, niente di difetti, hai migliorato tantissimo. La radio, la tenda è sempre uguale oggi? Sì, la tenda è sempre la del marco, sto cercando un alimentatore, cerca di alimentatore, quello qua lo appendisco, quello scritto lo appendisco, cerca di alimentatore, anche un trasformatore, non lo dico, tu non ne hai dopo. No, c'ho solo il mio, dai, ne ho due, però sono tutti e due collegati. Se prendilo grosso, pigliati un 30 ampere continui, non 30 ampere massimi, continui al trasformatore. Se sento qualcosa ti faccio sapere, c'era tempo fa una bella offerta, però l'avranno venduto. Se sento qualcosa ti chiamo, non prendere gli switching, mettiti questi qua che sono molto più efficaci e meno problemi, dai. Ok, vai Claudio, a te. Ia. Questo Claudio Spagliero sempre l'anno fa, vero oggi? Come la droga, aspetta, che diciamo per quella radio, quindi hai fatto veramente un grandissimo acquisto, qui esce benissimo, ma anche Daniele esce molto bene. Daniele gli ho fatto qualche regolazione io, perché lui a casa sua, io a casa, niente di che, ho detto di aprirla, dirmi come erano delle posizioni, erano spostate, e ha recuperato un po' di cose, insomma, di modulazione, però tu stai scendendo bene perché quella è fatta tecnicamente, quindi va bene così. Vai Roberto. Beh, io non lo confermo, possiamo dire che il portatore sta arrivando anche molto forte e pulito, così è 14 o che cos'è? 40, mica c'è stato un blocco, ha fatto un blocco? Ah, allora gli arrivassi così. Buongiorno, sì, buongiorno, buonasera a tutti. Massimi. Signori, dalla notte, com'è? Ottimo per la truppa, 9 più 20 alla 10.5, poi amici come ti sto arrivando io. Sì, è un 140 che ho fatto prendere io, ma è nuova, veramente molto molto bella. Avanti, oggi per i saluti a Massimiliano. Ciao, eccomi, tutto a posto, guarda il telefono, maledetto, a te. Ciao Roberto, avanti. Ehi, ciao Massimiliano, ben sentito. Cosa hai detto? Ciao Marco Lì. Ciao amico mio. Infatti ho detto no, pensavo potessi confondere le nome, no, ho sentito male. Ok, beh Massimiliano, tutto a posto. Ehi, tutto a posto, no? Mi ha già fatto 3-4 km, a piedi, camminelli. Un po' di corsetto, un po' camminando, e adesso mi sdocciato e tutto a posto, no? Quelli stava di Ulmer, sì. C'è un cazzo di rivedere, ehi, Roberto. Mi raccomando, guarda che per le cose, per l'estate voglio andare a posto, cacchio, cerca di finirla. No, per l'estate ancora puoi passare nei pezzi finiti, ma per l'estate no, dai, ancora un paio d'anni, là. No, però beh, sempre che te lo vedo, perché come signora ci scambiamo un sacco di foto, no? Mi ha fatto ridere, cazzo, mi ha fatto la corsetta, però dille a vedere cosa fa sabato e la domenica, quella graticola che c'è nel giardino, a vedere come rulla. Vabbè, però in settimana faccio da bravo, là. Fai da bravo, certo che sì, ma noi già vedere domenica, vamo già alla playa. Da, per fine settimana, Claudio, io... già lo sai, a pranzo sono sempre con la borsa a frigo, quindi mangio un po' così, da una cosa veloce, quindi almeno il sabato che sono a casa, due pescioline, due alette di pollo, ma roba sempre che comunque roba leggera, da. Vai Ugi! Ehi, già sono qua! Basta! sardo. Assomiglia, cacchio, roba leggera, ho già visto l'albero delle cose, delle salsicce. Lo sei visto? L'albero delle salsicce, attenzionamente, cosa è roba leggera? Vabbè, ma quella è l'anno scorso. A noi arrostiamo molto, a noi piace molto il pollo arrosto, il pesce ho cucinato dei muggini. E oggi tu sei questo così che mi hai mandato? Sono io. Cosa è già? Gaffa, vai Claudia, ripeto. Quello ti mancava, Ti ne mando un'altra, sì. No, le entrate l'aria mi ha detto che ho preparato una matrice ampia, se no, ha detto papà però le prendete integrali, no, le prendete integrali, ma io dico, che se prendete integrali? Io voglio le benette, sai che se integrali? Ma io voglio diventare cicciona, le sono il secco, io sono una cinesia, diventa cicciona. Ma lascia perdere, se la sua figa tu vola, va sì. Allora, hai la ragione, siamo il secco, vai, finirà. Per benette integrale, anche a dieta c'è buone, basta asciutta buona, ho fatto questa matriciana, avevamo all'ombrano, voi gnocchetti mangiamo anche gnocchetti, quelli cellino, buoni, vedi, gnocchetti la matriciana stavolta. Beh signori, a me mi avete fatto venire fame, adesso devo andare a mangiare. Ciao a tutti, ciao Claudio, ciao Massimiliano, ciao Eugenio e tutti gli eventuali qua amici canale 10. Beh, mangio un poco di fame, dai, ci sentiamo alle prossime. Oggi quando capiti a Sassa li fatti vedere. Sì, Roberto, allora, sta mangiando. Dai, così non l'ha fatto più, 5 minuti e poi me lo parlo, ti sto lavorando. Va bene, ciao Robè, buonasera, ci sentiamo. Oh Robè, dimmi. Se viene Marco domani mattina, che io non sono passato, dille se ha ricevuto quella documentazione che le abbiamo mandato da quella là. Guarda, stasera è venuto, però me ne stavo andando perché c'era mio nipote, l'ho dovuto accompagnare, è in frettissima, sono mi chiedeva al negozio che chiudeva alle 7, stavo cercando delle cose, delle cerniere, dovevo fare due negozi, meno male l'ho trovato appeso. E già passa tutti i giorni, domani mattina proprio per passare perché mi vedi la roba dalla macchina sua, poi gli chiedo anche dalla roba tua. Dille se ha ricevuto solo la documentazione che noi abbiamo mandato a quella signora, capito? Solo quello mi interessa perché l'avevo mandato. Ciao, poi domani mattina già passo, così ci mettiamo d'accordo per fare quegli occhiali al cancello. Ciao, riprendi Massimiliano. Sì, è positivo, là. E me oggi, questo ce l'ho vivi, mi l'ho mandato anche a Claudio adesso. Quello lì è più simpatico, io te lo abbiamo mandato, è il corpo iniziale, va. Chi se lo sa che si assomiglia, è più fario. Ah, questa è bella, questo è un giro, no, schifo, come si chiama, schicce? Schicce. Bella, questa quando mi fa cazzare la mando a Anna. Aspetta, te ne mando un altro, più simpatico. Così gliela mando e siamo a posto. Non mi hai detto se il segnale è a posto mio o Massimiliano, sto arrivando bene col 30. Ma quasi tutto. Udu, mica, già c'era quello che diceva giù che l'hanno fatto tutto, pure io che l'hanno fatto tutto. Solito segnale, chi c'era perché? Qualche uno rompendo le scatole. Boh. Comunque dai, 9:20 a picchi di 25, ottimo per la truppa. L'hai visto l'altro che ti ho mandato? Va bene, dai. Oh, sì, tu bene mi ascolti lì da te, io sto usando il Galaxy. Sì, perfetto. Perfetto, Massi, perfetto. Vabbè, tu e Claudio, quando cambiate a carattere non si sente, ma forse questo non si sente. La radio è buona, se no la posso sollevare un pochino, La cavolo, Dio, è perfetta. È bella, come dico io, ignorante, bella prepotente, già la sera usci. Andà bene. KK, là. Comunque, ti sento contento, là. No, io sono contentissimo. Un'allenatore vuole fare, in un'area per forza, a chi inizia la cosa mi ammazzoni, non ve la posso più a sopportare. Ascolta, Eugenio, momentaneamente, se non vuoi prendere veramente attore, adesso non mi ricordo da quanto è la resistenza che ho detto a Giulio di mettere, nel 2-3 rosso e il nero della ventolina. C'è una resistenza dove attenua la velocità della ventola e non la senti più, capito? Ma io mi voglio trovare il PS50, volatile, mi voglio fare come c'è tu, l'alimentatore, la colonia esterna, tutto qui, di bello. Lo so, da trovare. Si può cercare, fammi cercare e poi te lo dico, non ti preoccupare, come abbiamo fatto per la radio, già troviamo anche quella, però in alternativa a quel rumore che senti alla ventola, perché è troppo rumorosa, ma non è rumorosa la ventola, è perché è veloce, quindi bisogna attenuare la velocità, come ha fatto Giulio, e come c'ho io nel box c'ho una resistenza dove praticamente attenua la velocità, la ventola gira, ma gira meno veloce, e quindi è meno rumorosa, è più silenziosa, tanto è vero che non senti niente, capito? E bisogna mettere una di quelle, però non mi ricordo che da quant'è la resistenza, quando entra Giulio glielo chiedo, te lo dico, si prende la fusione e si attacca, sono due punti di saldatura, non c'è niente da fare. Fate un po' il problema nel capo, perché vada, sinceramente, soprattutto la notte rimbomba in più. Ma lo sai cosa fai oggi? Prendi un gomito quello da 90, quello che si usa per i pluviali, e glielo metti, appoggialo dove c'è la ventolina, lo giri verso il muro, verso quella cosa chiusa. Ma non rimbomba così? Non rimbomba, attenua di brutto. Un gomito mi ha detto. Ma un gomito quello di PVC? È un gomito per quelli dei canali dell'acqua, amico. Capito? Io lo appoggio sopra l'alimentatore, faccio la ventolina e lo devi verso il muro, verso qualcosa. Trattino di brutto. Quello capito, come faccio a attaccare? Questo qua c'è la sul fianco. Come faccio a attaccarlo? Gliela appoggi solo senza attaccarla, gliela appoggi. Ce l'ho, domani la prendo lo scopo, dai. Come la resistenza, adesso è perché Giulio è andato via, se no io gli ho detto come avevo fatto la mia e l'ha fatto anche lui, ed è molto molto attenuata, cioè non la senti più la ventola a girare così veloce, capito? E ti attenua il rumore, che è una rottura di balle, già va bene, la radio alta è Massimi, va bene così, a 2,5 ce l'ho il Michini. Sì, clà, buonissima, la radio buona. Ultimo segnale, ultima radio, io avrei lasciato tutto così senza toccare niente, va benissimo. E da lì ci vuole un alimentatore stabilizzato, senza ventole, senza nulla, e così appunto, almeno un 30 ampere, e così ha finito con gli alimentatori, ventole, ventolini, anche perché con un microfono amplificato la senti parecchio, capito? L'ho chiamato, se no mi sono dimenticato di guardare l'inserto, l'ho appena venduto, l'ho venduto ieri. Costano sui 100-150 euro, la cifra è quella più o meno. 115 euro, uno libero Gerardi di Roma, un radioamatore. Buono, prendetela buona allora. Sì, 15 euro di spedizione, vabbè, non si affida. Però l'ha già venduto. Adesso se ne avevate non è altro. Su Facebook, mettici l'inserzione, cerco alimentatore PS50. Comunque Massimiliano, lo sai che avevi ragione. Oh. Sì, perché guardandomi, siccome io ho anche il manuale del 430, no? Ci sono i pizzi che vanno di linea. Allora, il PS430, che è il suo alimentatore, proprio il suo nato per il 430, fate la stessa sigla, è 20-25 di picco. Il PS50 è 25 di tensione e 30 di picco, hai ragione. Te l'ho detto, cra. Ma mi sono un po' informato perché ho letto dei commenti che stavano facendo dei radioamatori, ecco perché te l'ho detto, capito? Tu dicevi di no, allora io non ho insistito più di tanto, però per me era così. E in più hai visto il manuale, cosa dice? Sì, è così. No, ma io ero totalmente convinto perché sicuramente, essendo un 25 ampere, però 30 di picco, resiste di più alla potenza della radio, capito? Però anche col 430, col PS430, io non me ne accorgevo perché c'hai 20, 25. 5 di picco, capito? Quindi va bene lo stesso. Però il PS50 è 25 ampere, non è 30 ampere, 30 te li dà di picco, capito? Però è 25 ampere, uno è 20 e uno è 25, però sono lì tutte e due, non cambia assolutamente niente. Oh ragazzi, dai, io vado a vaccinare, il mondo mi ha chiamato. Sentiamo dopo se ci siete, dai. Ciao, a dopo. E cosa vai di buono? Anguilla, con le unghie. Fino oggi. Buono, eh. Andava. Ciao G, buona cena e buon tutto allora, dai. Dai, poi se sento qualcosa ti avviso subito, ok? Ok, dai, ci hanno portato il tipo, eh. Ci sentiamo ragazzi, a dopo. Ciao, buon tutto, a dopo se coincido, ciao ciao. Ciao G, ciao, buona serata e buona magnata. Ehi, ehi, ma si è così e così, ma stavo mettendomi a posto il cassetto qua della, dove c'erano tutte le radio, la cassettiera che l'ho già preparata per portare via, sono fatto dei cassetti, l'ho mascherata per la scena dei garaci, e nell'ultimo cassetto ci sono i manuali, capito? E guardando così i pezzi che vanno a fare linea, insomma, ho visto c'è il PS430 e il PS50, tutti e due ci sono, e c'è appunto, sono tutti e due in pratica 25 ampere, uno da 30 di picco, l'altro 25, ma come alimentatore sono tutti e due da 25 ampere. Sì, ma claro, la tiene bene, anche perché diciamo che lo stabilizzato tiene meglio anche di un switching, capito? È che lo sai che cos'è, che lo stabilizzato c'ha il dissipatore, è fatto tutto in diversa maniera dentro, capito? Ma una schedina è per forza scalda, capito? Se una schedina da niente, quindi c'ha dei finali, scaldano, e se quella ventola non gira così a manetta bruci tutto. Si chiama lo scippatore. Come si chiama? Scippatore. Scippatore. Va bene, va bene. Sì, sì, c'è una bella ventola il PS50, il PS430 all'interno, c'è una ventola proprio sopra, ma è silenziosissima proprio, no? E si accende come si accende la radio, forse si accende un po' prima, non lo so, di quella della radio, ma lavorano praticamente in tandem, Molti un alimentatore, ce l'ho una vita, ce l'ho sempre avuto l'alimentatore suo, sempre. Avanti, Luca. E dai, sono andato a salutarvi che sto riparando, sto controllando una TV, Cla. Sono qua in ascolto, dai. Ciao Massimiliano, riprendo. E dai, io riprendo, Cla, me ne scendo giù, ho messo quelle cosce, sovraccosce in forno, con quella specie di spezie che si mette dentro quella busta. E si sente un bel profumo, sicuramente sono quasi pronti, là. Me ne scendo giù, sono già le 9:20. Se in caso ci aggiorniamo a motozappa, ok Claudio? Ehi, Massimiliano, come facciamo sempre, ci aggiorniamo dopo cena, quando siamo sdraiati nel divano, dai, a dirci due trozzate. Anch'io allora vi lascio, dai, se me lo prendiamo un quarto, vado a mettere l'acqua e buttare due gnocchettini, dai. Buona cena a tutti, grazie alle due chiacchiere, ciao Luca, ciao Massimino e ciao a tutti quelli che sono in ascolto. Bye bye. Ciao Claudio, dai, ti saluto Luca, ci sentiamo, dai, ok? Anch'io vi stacco, ciao ciao. Sì, ciao, buona cena a voi, alla prossima, ciao. Qua c'è acceso nel gas, Cla, ciao. E ci sentiamo dopo, dai, ciao ciao. Thank you. modulazione. Ora, sì, prova, 1, 2, 3, prova di modulazione. Sa, sa, sa, sa, sa. Ora, sì. Innesca, innesca, no. Mi innesca, vedi? troppo vicino, cazzo, amplifica troppo là. Non lo so, come io si inventa accendere il portatile, dai nomi. No, ma non si, non si bussa. Ora, ora. Non si può proprio c'ha, devi entrare tu sul tuo lato, dai. Lo so anche questo, vedi. Ora. Un casino, cazzo, vedi, che ne esca. Cosa se ne è distante? Non ditevi di nero distante. Allora, il tarde, se lo metto in piedi vicino sotto la colonnina dello, del baracchino, innesca. Se lo metto più distante, non innesca più come adesso. Ma il parlo ascolta, guarda. Ehi, entra in collisione, capito? Fa e mi rompe le palle. Ah, ovvio. Allora, dovrei mettere il microfono tutta l'altra parte, siccome devo modificare il mobile. E qua c'ho il ripiano, là non ce l'ho l'altra parte a sinistra. E quindi devo tutto modificare. E poi lo posso mettere distante, i piedi vicino a un po' distante allo stereo, cioè la parte sinistra, anziché la parte destra che c'è l'autoparlante. Capo, no, io... cioè solo che devo dire tutti i nostri apparecchi scusati, no, che non posso sentire nulla. Non ho questo problema, anche il capo fa, si avvicina al microfono, no, non viene problemi, non che c'è lo strumento attaccato. L'unica cosa che vuoi che non posso tenere nessun baracchino acceso, sennò come te lo già frusci a tutto, no? No, io posso accedere tutto, però adesso è tutto spento, non me ne appunti nulla. Però ripeto, questo mobile che ho fatto io, c'è lo sportellino che io appoggio la roba, il microfono, eccetera, un ripiano che sono i baracchini, tutto ben incasciati, e un altro ripiano sopra e basta. Siccome c'ho solo due ripiani, e c'ho anche il televisore, eccetera, io devo praticamente rimodernare o rifare un altro mobile con quattro ripiani e due sportelli sotto, capito? La modifica è quella, e poi rimane tutto ordinato come si deve. Poi mi devo fare un rubacorrente, cioè un rubacorrente, diciamo una ciambatta fatta da me, però con un cavo da bottiglia da 2,5, le prese incorporate, faccio una bella scatoletta con l'interruttore bipolare, ho spiego tutto, ho accedo tutto. Non più con la ciambatta così perché non mi piace. Niente, devo modificare tutto, però questo lo faccio dopo che ritorno da fuori. Ciao, lo fai così. Ma non che mangio una massa a terra micidiale, faccio. Mi sono gabbizzato, mi sono rende, cioè, mi sono accorto che dal palazzo, ma poi l'ho chiesto a lui, ha detto, oh, c'è una massa a terra che è una cosa micidiale, come ti fa dire non una voce, a me. Le massa a terra, dice, l'ho fatta misurare, dice che è una cosa spettacolare. Ha detto, ah, ecco perché non mi fischia niente qua, ha detto. Ma la massa a terra, tu, micidiale, normale, con la treccia in rame. Poi ci sono dei palazzi enormi come le scuole, eccetera, là c'hanno la gabbia Fahrenheit, che poi scende la piattina fin giù e va collegata con il picchetto massa a terra e la treccia in rame. Ma cosa dice che ci ha lasciato lui, la massa a terra che avevano fatto un po' di anni fa? Ma di solito la fanno in giro al palazzo, la fanno, capito? Incementata sotto, col fatto di picchetto e i pozzetti ispezionabili, quindi una signora massa a terra. Se poi vuoi fare anche per le scariche elettrostatiche eccetera, ci fai la gabbia frenetti sopra. No, già un tipo che li fa bene il lavoro, già. Dice che l'ha fatta misurare dall'elettricista. Cazzo, dice che è una cosa fatta bene veramente. C'è poco da misurare, guarda. Basta avere una fase e la terra è collegata con la padia. Se accende, vuol dire che la massa è buona. Non c'è tanto a misurare, ma non c'è fare anche un principiante. E sicuramente avranno fatto così, io non lo so, Sicuramente avranno fatto così. oppure col test e misuri terra, alzati da 2,20, 2,25, 2,30, quanto è la corrente, boh, attenzione perché è stato varia. Quindi, avendo testa, se vuoi testa, non ne ha, usato la pallina, amatesi cosa. Dice che l'ha fatta misurare col tester. Tester da 2,20. Che poi non è mai 2,20, 2,25, 2,30, quindi, capito? Allora è ottima massa, perfetto. Che serve per le scariche, eccetera. La dispersione automaticamente molte volte che non, uno non c'ha la massa in casa. Tocca al frigorifero e alza la scossa, tocca la cucina e alza la scossa, capito? Tocca la lavatrice e alza la scossa. E la massa serve proprio per disperdere le scariche della fase. Come le fa a pensare che ogni tanto ne piglio una, io? Per carità, per cosa non la collega, non abbiamo cottura. Io vado a toccare il flessibile che è in acciaio, il tubo magari è rame, il tubo che è rame, e la dà a me, la dà quando è bagnato. Infatti io dico sempre, alla fine quando me ne stufo dico, una volta mi ci dubito a mettere la scintilla, mi decide. Quando me ne stufo dico, ascolti, spenga il contattore, se no bomba non viene il piazzo. Che non mangio il biglietto, non mangio il biglietto la corrente. Allora sappi, ogni metallo, rame, acciaio, quello che vuoi, è un conduttore corrente. Come l'acqua tra l'altro. Io vedo un'altra cosa, se non c'è massa, vedo un'altra cosa. Allora, se tu hai un elettrodomestico che ti dà la corrente, allora non ti costa altro che fare una massa volante, che è la cosa più facile del mondo. Per esempio, il baracchino, la carrozzeria che è in metallo, mi dà la corrente. Svito la vite un pochettino, metto il filo di elettrico, lo avvito lì, lo stringo la vite, un chiodino al muro, con rame e scarico lì. E corrente non mi dà più. È una cazzata. Cabba, sì, lo so. Lo so come me l'hanno detto, me l'hanno. Cioè, però cavolo, cioè il rame è poco conduttivo mi sul piano cottura, se non hanno massa a terra. Cioè, poi tu tocchi dalla centralina, tocchi il flessibile, gatto ti accudi bene la scarica. Ora di cazzo ci trovo il fuoco, la scintilla forte, cazzo da giù brincato. Se ci dà la giave, cioè ma quella volta me l'ha data forte, mi ha seccato la mano. Allora il piano cottura c'è una spina che c'è anche il forno elettrico, eccetera. Se quella spina è infilata in una presa che non c'è massa e corrente, io vedo la corsa, c'è dispersione. Cappa, sì, no, ma io lo so perfettamente già. Già lo so, infatti a molti, cioè, quando vedi due o tre gocce, ma però sai cosa fai? Mi chiudi il contatore, ti piazzo la bombola, poi lo riaccendi quando è umido. Visto che gli ho detto 3-4 volte, non la vuole comprendere. E ieri abbiamo fatto un po' di lezione con Giulio. Quindi mi sa che c'era anche tu ci. E io sono arrivato tardi. Ti faccio. Adesso la prossima lezione. Cappa. Uno dei carri che mi ha giubilato. Una volta che non so cosa Marazzo ci ha fatto. Hai sbagliato le cose, sicuramente, poca intelligenza. Fa corso la massa la boccia cazzo nell'altro filo. La massa sicuramente la boccia, non so come ti è andata. Non da tirare la bomba, ti biglio chi ci accarrega. Ui! Massicato ma. Se fossero state tette, sta tranquillo, le avete tenute. Sì, mia, Antonello. Ui, buon posto! Buonasera a tutti e tre. Anzi, tutti e due, non tutti e tre. Dimmi come ti sta arrivando così, 1, 2, 3, prova di modulation. Sei leggermente più basso di radio, Tony. Non sei compresso, sei leggermente più basso. È come se fosse la modulazione tipo piatta, capito? Lo so, però come segnale mi interessava, che poi stacco. Ah, come segnale va bene, sei 9.30. Ok, adesso la radio è migliore, di la verità. Oh yeah, cambia. Esso quanti bipi che vaga. Esso non faccio. A chi è il singolo? Il Saverta è quello. Lo usando il 2009 di Giovanna, capito? Ecco perché c'ho tutti questi bipi. Dai, piri, Cabba. Bene, di sopra? Sì, abbastanza, abbastanza. Comunque, come radio ultima, Antonè, sto usando quelle tarme Super Cedric. Sì, ho voglia che stai facendo bene, ci mancherebbe, sei perfetto. Ok, va bene. Avanti, Antonio. Papà. Sara ha detto che sembra un giocattolo. Che cosa? Che tu bip. Ah! E bipi delle malattie che ho avuto sempre io. Ma ce l'ho l'anno, ce l'ho minimo 20 anni. Aspetta, lo metto a due. Adesso a due. Chi che vuole entrare? Non lo so. Quando tocco mi va casino qua. Non l'ho scritto bene. Sì, sì. Adesso va bene. Eccomi qua, eccomi qua. Questo è il corso, è stato un ecco. Si sente? Forse prima di blu mi senti, capo. Ove, ove. Mi rovi, bicicletta. Cazzo per il blu, faccio prima di blu mi senti. Eia, che l'ho messo qua, cazzo. Da presidente l'ho messo la Galaxy. Parlate di ciccio, cazzo. Vabbè, non si può parlare, se no ti prendo per maleducati. Ma pure da male, sono andati attaccata, va. Ti prendo per dei travati. Ma il rumore è buon lo so, tu parli che faccia, la sono andati attaccata. Come il rumore? Ma no, non sono accorto io. Cioè, la ventola deve alimentata con l'olio lineare. Mi sa già portate senza parlare, Pompo. E la ventola cinese, devo avere pazienza, Devo avere il tempo di andarci, la sento anch'io, mi avete che la sento anch'io. Qua, senti, qua. No, la ventola ok, non si sente, sento molto... vero, Clato. La ventola, per un trodio allungato, guarda. E bello la ventola mia l'ho fatta a corso. Hai capito? Io mi sono tenuto la vecchia. Poi io ho dato la nuova, che quella è frutto la mia della vecchia. Fanculo a me, potevo tenermi la vecchia. E da lì, potevo rivendere la nuova, potevo dare la vecchia. Invece ho fatto il contrario. Io ce ne ho ventoline, guarda. No, proprio la ventola che fa casino. Ah, lo senti, va. Sta toccando qualche posto, sta toccando. Perché è da un po' di tempo che non lo uso questa alimentatore. Lo devi lubrificare, Antone. Ah, ce la prendo in culo, ce la butto da mondessa. Questo ventino è l'alimentatore. Già lo sa Antonio. Quindi. Vado ai cinesi domani, intanto devo uscire, mi piglio 2-1 da 20 ampere, l'altro a 50 ampere, l'alimentatore sono a posto. La 50 non so se l'ho portato. Già c'è, vai, sta tranquillo. Quindi a me così me la cambio, se no devo fare cazzo sventiale ogni volta. Tanto a riparlarmi l'alimentatore è quello vecchio, da 30 ampere, che c'ha più di 25 anni, non mi frega proprio niente, anzi è un regalo. Chiunque lo vuole, si cambia i ponti di Dio e se lo ripara. E se la trova in culo, non lo sta a sventiare. C'è lo più strumento, pesa quasi 15 kg. Ma già non ha fatto, quando passa qualcuno che non puoi vedere, lo molle dalla finestra. Quello ho già fatto con la caffettiera. Sono andato in capo del buccio. L'ho fatto con la caffettiera 2 giorni fa, mi ha dato le balle, non frittava più, a un certo punto non ci va più il caffè, ho obbligato, ho preso la caffettiera e ho dato una panda in mezzo alla strada. E mi ha beccato anche uno. No, fortunatamente no, prima del parcheggio, al centro. Oh, scusate, ma ti viene fuori che c'è il telefono. Gli arrivavo poco, se pigliava a capo, meno nei cimmi, se pigliava a capo anche uno, non ti fa vedere. fine di matto, sto dicendo, facevo il caffè e lui usciva la metà. A un certo punto non ci sono neanche una tazzina, ha già inviato la caffettiera, ha tolto il filtro. Adesso ti faccio vedere io come cambia subito la caffettiera. Ha già inviato, boh, arriva a trovare un uomo, a una e all'altra, sopra e sotto, smontata. Non sono stato in casa, no? Ah, già lo sai, quei fitti.